Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci insieme, sono le 11.09, Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Menisco, chi non lo conosce? Non so bene cosa sia il menisco, so soltanto che se lo rompono tanti calciatori e credo faccia parte del ginocchio, è tutto quello che so. Il menisco è una tipo guaina gelatinosa che ricopre le articolazioni del ginocchio, credo, può essere. Anch'io ho avuto un problema al menisco quando avevo 14 anni, ma in realtà non so bene cosa sia. Credo sia una sorta di dischetto piazzato tra un'articolazione e l'altra che permette meglio il movimento. Il menisco, allora, io stavo salendo le scale e mi è venuto in mente che forse mi sono fatta male al menisco, però secondo me mi lascio influenzare perché si sente sempre il menisco. Che cosa ho sentito? Una specie di fitta nel ginocchio, una cosa del genere? Nella parte sotto del ginocchio, secondo me, diciamo dietro la rotula, e ha una forma di C abbastanza aperta, me lo immagino tipo la Liguria. E so che è una parte abbastanza delicata, però negli ultimi tempi le operazioni al menisco sono diventate più efficaci e si risolvono in breve tempo rispetto a qualche anno fa. Allora, il menisco sicuramente si trova nel ginocchio. All'inizio pensavo fosse un osso, poi ho visto mio papà che si metteva su un tutore per la gamba e mi spiegava che aveva il menisco consumato, quindi a questo punto penso sia una specie di cartilagine. Allora, il menisco dovrebbe essere un osso che si trova nella parte alta del ginocchio, a forma arrotondata, e dovrebbe essere un osso molto importante, usato nei movimenti, però anche molto fragile, visto che spesso si parla comunque di rottura del menisco per gli sportivi, quindi immagino sia anche molto delicato. Allora, qualcuno l'ha localizzato, qualcuno ha detto che è fatto di gelatina, che ha la forma della Liguria, qualcuno ha detto che si rompe facilmente, specie in chi pratica sport, però siamo ancora un po' lontanini, insomma, ancora non siamo proprio vicini ad una definizione. Allora andiamo a sentire alla voce menisco che cosa si legge. I menischi sono formazioni fibrocartilaginee. Si trovano nell'articolazione tra femore e tibia e hanno il compito di assicurare la stabilità all'articolazione, tanto che possono essere considerati gli ammortizzatori del nostro corpo. Il menisco laterale ha la forma di una C molto chiusa, quasi una O. Il menisco mediale di una C aperta ed essendo meno resistente e meno mobile di quello laterale, è esposto a lesioni più di frequente. Allora, benissimo, ora vi presento l'ospite a cui affideremo i nostri menischi, danneggiati da traumi, da usura, ma vogliamo anche occuparci delle ginocchia di chi il menisco non ce l'ha più. Buongiorno e bentornato al professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore. Buongiorno a tutti. La vedevo sorridere. No, è stato veramente interessante e affascinante, nel senso che tutto sommato in parte c'è una buona cultura e in parte c'è una gran confusione, come è prevedibile. Vorrei aggiungere a quello che abbiamo che avete detto che si legge quando si parla di menisco, che è giusto ricordare che, lo dico sempre quando si parla del ginocchio, che il ginocchio è un'articolazione sfortunata, nel senso che è un'articolazione di per sé instabile, nel senso che la parte bassa del femore si articola con la parte alta della tibia e abbiamo una superficie assolutamente curva, che è quella del femore, che si articola con una superficie assolutamente, per così dire, piatta. Quindi è instabile di per sé. Allora, madre natura cosa ha fatto per renderla più stabile? Ci ha messo dei legamenti che tengono il tutto e ha messo i menischi, che sono come delle specie di zeppe che noi possiamo mettere per non far scivolare una ruota, sì, in maniera tale che ci sia maggiore stabilità. E altro elemento importante, come giustamente è stato detto, si comportano anche come ammortizzatori, cioè distribuiscono meglio il carico, che non è puntiforme, cioè in un solo punto, che provocherebbe un'usura importante della cartilagine, ma viene a essere distribuito lungo le pareti di questa zeppa, e tutto questo comporta una distribuzione del carico molto buona, tanto da evitare che ci sia un'usura della cartilagine. 8, chiarissimo, 800 24 00 24. Se volete intervenire potete andare anche su Facebook, scriverci al 349 238 6666, oppure essere benessere at radio24.it. professor D'Anchise, iniziamo ad occuparci oggi che parliamo di menisco, da chi il menisco non ce l'ha più. Un tempo si toglieva forse con troppa leggerezza e solo dopo si è capito che senza menisco la cartilagine soffre. Ho letto dei dati interessanti che dicono che in ginocchia operate di asportazione del menisco si ha una perdita di volume della cartilagine pari a circa il 6,5% all'anno, come se uno perdesse dal conto corrente il 6,5% della somma depositata senza utilizzarla. Insomma, mi è venuto un po' il confronto e ci parla. Sì, ecco, dobbiamo essere così categorici, nel senso che non è assolutamente obbligatorio che chi è senza menisco vada incontro ad un'usura della cartilagine significativa. Attenzione che usura della cartilagine comporta poi l'artrosi. L'artrosi è la cartilagine che si è consumata. Quindi è vero, c'è un'usura progressiva, quindi dobbiamo rispettare i menischi il più possibile, però non è così detto che chi è senza menisco vada incontro ad una situazione drammatica. Però torniamo alla cartilagine, che mi preoccupa un pochino. Se è rovinata, vuoi per mancanza di menisco o per altre situazioni, alterazioni traumatiche, per gli esiti di lesioni dei legamenti non trattate, ci sono tutta una serie di elementi che comportano un'alterazione del movimento del ginocchio, che ovviamente, essendo un'articolazione che deve essere perfettamente conforme, tende ad usurarsi. Ecco, però adesso voi siete in grado di rigenerare il tessuto cartilagineo del ginocchio con una tecnica che consiste in un impianto. È un po' il frutto dell'ingegneria tessutale, che permette, no, di coltivare in laboratorio particolari cellule che vengono prelevate dal ginocchio danneggiato quando ci sono, o nell'altro ginocchio ancora in altre articolazioni. Questo è un argomento estremamente complesso. La premessa che bisogna fare è che se la cartilagine si è rovinata per un motivo, non è ragionevole ripristinare la cartilagine senza eliminare la causa che ha provocato il danno. Certo. Quindi, se io avessi un danno cartilagineo per una lesione meniscale, dovrei fare un trapianto meniscale, cioè dovrei ripristinare il menisco, e poi, se la cartilagine è alterata in maniera significativa, passare al trattamento del danno cartilagineo. Trattamento del danno cartilagineo che è in questo momento in uno stato un po' confusionale, nel senso che il trattamento a cui si faceva riferimento, ne abbiamo fatti tanti. Ci sono ancora dei problemi legislativi che non ci mettono tranquilli, nel senso che non c'è una situazione ministeriale che ci consenta di essere tranquilli nell'utilizzo di questa tecnica. Ci sono però altre tecniche che stanno venendo fuori, più o meno significative, ma oggi come oggi non c'è la soluzione del problema sicura. Senta, professore, ma noi possiamo in qualche modo tutelare i nostri menischi rafforzando la muscolatura, oppure facendo degli esercizi, evitando, non si può, allora, magari dei movimenti? L'elemento importante è che tutte le attività sportive devono essere fatte dopo aver fatto un valido allenamento. Logicamente, nel momento in cui il menisco si rompe, e si rompe per situazioni banali, evidentemente noi non possiamo far nulla. Facciamo un esempio: una delle classiche rotture del menisco è una persona che si inginocchia, si tira su bruscamente, siccome, come è stato detto, i menischi seguono un po' il movimento dell'articolazione, nel momento in cui il menisco non riesce a seguire la velocità in cui noi estendiamo il nostro ginocchio, si rompe, e chiaramente questo non è evitabile. Abbiamo subito Stefano, ci chiama da Teramo all'800 24 00 24. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore, volevo chiedere gentilmente, io ho avuto un'asportazione quasi totale del menisco nell'epoca in cui andava di moda togliere il menisco completamente e non nemmeno parzialmente conservarlo. In artroscopia l'ha fatto? No, a cielo aperto. Quindi un po' di anni fa. Guardi, ne parliamo dell'87 all'incirca. Ho sempre continuato a fare sport moderatamente, molta bici. Poi ho interrotto l'attività e ho ripreso a correre. Purtroppo vedo sempre un gonfiore eccessivo del ginocchio. Mi devo fermare, aspettare qualche giorno e poi ricominciare. Volevo sapere quando è indicato fare pratica nel mio caso e cosa fare eventualmente. Grazie Stefano, allora, bella domanda. Quello che lei deve fare è prima di tutto un accertamento radiografico e con una risonanza per capire in che situazioni è il suo ginocchio. Molto probabilmente lei fa parte di quei pazienti che, avendo avuto una sportazione anche con tecniche aggressive come erano negli anni 70 e negli anni 80 e anche prima, questo ha comportato probabilmente un'usura della sua cartilagine. Credo che a questo punto ci voglia il buon senso, cioè ridurre le attività e poi in relazione a quello che si trova decidere se fare qualcosa o meno. Ecco, uno dei suggerimenti che ci possono essere in queste situazioni che sembrano essere diciamo non più recuperabili, cioè l'artrosi, questo è un altro elemento importante: se noi abbiamo l'artrosi non pensiamo di poter ricostruire la cartilagine, se abbiamo un danno cartilagineo non importante si può fare qualche cosa. Quindi se c'è un'artrosi conclamata non c'è niente da fare se non intervenire sull'artrosi. In una persona relativamente giovane, come credo sia lei, può essere utile fare una osteotomia, cioè modificare la distribuzione del carico in maniera diversa, in maniera tale che la parte sottoposta a maggior carico perché non ha il menisco possa lavorare meno, diciamo, ecco. Così è un intervento abbastanza importante che deve essere valutato. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi, nel tempo evidentemente siamo lontani da quello che diceva l'ascoltatore, è quella di fare poi un intervento per l'artrosi, che è una protesi che non è nulla di terribile oggi, che può essere anche parziale, quindi una protesi esclusivamente nella zona interessata, quindi di solito è la parte interna perché è il menisco interno quello che si rompe più frequentemente, come abbiamo sentito dalla nostra scheda. Ma se è vero che il menisco, se si rompe, noi non possiamo in qualche modo, no? Cercare di evitarlo. Lei citava proprio rotture, lesioni. Quando un rotture, lesioni, ecco, tra l'altro è la stessa cosa. Invece tante volte uno dice, esatto, solo lesionato. Infatti è rotto. Alla risonanza di ora sono proprio contento, guarda, perché lesionato non è rotto, che è la stessa cosa, insomma. Però non sempre il menisco va operato. Voi fate un distinguo anche, sì, in base un po' all'età anagrafica, ma non è solo un problema di anni, è un problema, allora, di... Concettualmente, se c'è una lesione traumatica, cioè quella che dicevo io prima, ci si inginocchia, si tira su, il menisco si rompe, lì non c'è niente da fare, bisogna operarlo. Nel caso in cui invece vi sia una lesione da usura, il menisco si può comportare un po' come la stoffa di un divano che abbiamo in casa da tanti anni, ad un certo punto si rompe pur avendo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto mille volte, ci siamo seduti come ci siamo seduti per 10 anni e a un certo punto si rompe. Queste sono le cosiddette lesioni da usura, quindi anche senza un trauma. In questo caso può valer la pena di aspettare, perché è come se la natura consentisse un po' di molare questa rottura meniscale e c'è la possibilità che la sintomatologia regredisca. È chiaro che se i sintomi persistono l'unica alternativa è l'intervento che oggi viene fatto in artroscopia, non più come ci diceva l'ascoltatore prima, cioè aprendo il ginocchio. Prima era un intervento molto impegnativo, oggi è un intervento sicuramente molto molto ben tollerato dal paziente. È sempre però un intervento, è sempre un intervento, oltretutto se possiamo non farlo, anche perché, ritornando alla lesione di tipo degenerativo, qualche volta i risultati non sono equivalenti a quelli del danno traumatico. Il danno traumatico, io sono certo che 99 su 100 il paziente ritorna a far tutto rapidamente. In quella degenerativa ci può essere un lento recupero, anche se l'intervento viene fatto in artroscopia, qualche volta ci può essere ancora, può persistere una certa sintomatologia dolorosa e in rari casi, quando c'è anche una degenerazione articolare, ci può anche essere un peggioramento, quindi attenzione. Dalla padella alla brace. Arrigo da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Io sono stato operato circa 2 mesi fa in artroscopia del menisco sinistro, la ripresa è stata molto veloce, il dolore era sparito, adesso a distanza di 2 mesi, 2 mesi e mezzo, tornano i dolori più o meno come prima. Lei come aveva fatto a rompersi il menisco, Arrigo? E quanti anni ha? 47, ho giocato per una quindicina d'anni a calcio. Dopo aver smesso, diciamo, i dolori erano spariti e poi sono tornati questi ultimi periodi. Quindi ho deciso per forza di fare l'intervento, però adesso purtroppo a distanza di poco tempo. Il menisco quando è partito? Durante una partita a calcetto oppure accovacciandosi? Nel tempo giocando a calcio. Ecco, vede che rientra un po' nel discorso che facevo prima io. 47 anni, non un danno preciso, non un nesso preciso tra trauma, diciamo, e lesione meniscale, ma un po' un'usura nel tempo. Lei fa parte di quelle lesioni degenerative che qualche volta hanno delle difficoltà a risolversi anche dopo l'intervento chirurgico e, facciamo gli scongiuri, spero che non capiti a lei, potrebbe persistere una certa sintomatologia dolorosa. Fondamentale, e io sono contenta che lo sottolinei lei che fa il chirurgo, è la riabilitazione. Professor D'Anchise. Nel senso che la riabilitazione in un'artroscopia per menisco è significativa, nel senso che il paziente... Allora, facciamo un passo indietro. Se l'intervento viene fatto molto rapidamente in relazione al danno meniscale, la riabilitazione può essere molto modesta perché non si ha perdita di tono muscolare. Se si aspetta del tempo e spesso vi è una netta perdita di tono muscolare, è indispensabile il ripristino della muscolatura. In queste situazioni non sempre è necessario andare dal fisioterapista, dal fisiatra. La riabilitazione può anche essere indicata dall'ortopedico o dal fisioterapista e fatta dal paziente autonomamente. E questa è una garanzia ma anche per il ginocchio, se impariamo e ci impegniamo, la muscolatura tiene il nostro ginocchio bene. La tragedia è che il muscolo sparisce rapidamente e per ripristinarlo ci vuole un tempo infinito, quindi non c'è proporzione in questo senso. Cristina ci chiama da Milano, benvenuta Cristina, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi buongiorno. Richiamato. Che voce squillante. Allora Cristina. Io volevo sapere se io ho sciato tantissimo nella mia vita, oggi ho 62 anni e non rinuncio ancora a fare discesa. Brava. Sì. Però faccio anche palestra, faccio un sacco di cose. E quest'anno mi è comparso un fastidio facendo una camminata, un piccolo trekking in discesa, mi è comparso un fastidio a un ginocchio che il mio amico fisiatra mi ha diagnosticato come assottigliamento cartilagineo, inizio di artrosi. Ecco, non è un dolore grandissimo, non ho problemi di menisco, però è vero che se faccio dei cicli di glucosamina solfato posso ancora usare la mia articolazione come... Sì, certo, l'età è quella che è, io ho 62 anni, l'ho detto. Una bambina. Vede, Cristina, ci chiami che il professor D'Anchise ci tira su. Allora, professore. È un argomento un po' diverso, secondo me, rispetto a quello che stiamo trattando, nel senso che la comparsa di questi sintomi, specialmente in discesa, da quello che ho capito, facendo trekking, fa riferimento probabilmente ad una sofferenza cartilaginea della rotula. Quindi è un percorso diverso che richiede accertamenti precisi e una risonanza magnetica per poter valutare cosa fare. Professore, Cristina ci ha dato un'indicazione su un tipo di dolore che ha avvertito, sì. Ma noi prima di andare ai mercati, vedo che Roberto è già pronto, ci sono dei dolori, delle difficoltà del movimento che potrebbero farci sospettare un interessamento del menisco? Allora, il dolore localizzato o all'interno o all'esterno del menisco, del ginocchio, proprio a livello di dove il ginocchio si piega, sì. Per così dire, quindi quelle che noi chiamiamo emirima articolare. Quello può essere un segno e a volte, oltre al menisco, parte anche il legamento. Ne parleremo, forse il contrario, parte il legamento e quindi il menisco si rompe, si lesiona. 800 24 0024, mercati, meteo e poi insieme a Nicoletta Carbone. Ginocchio, quando non ci facciamo mancare niente, oltre al menisco parte anche il legamento, ma forse, professor D'Anchise, parte prima il legamento e poi si lesiona il menisco. Allora, qual è la storia? Tutto può capitare, tutto evidentemente, può capitare. Nel senso che si può rompere il menisco e poi sfortunatamente si può rompere anche il legamento. Però, mentre se si rompe il menisco, il legamento non si rompe in conseguenza della rottura del menisco, l'inverso può accadere, cioè se si rompe il legamento, e parliamo in particolare del legamento crociato anteriore, non trattato, nel tempo o anche quasi in contemporanea si può rompere il menisco, questo sì. Questo per la funzione che ha il legamento crociato di cui lei ci aveva anteriore, di cui lei ci ha spiegato, perché c'è anche quello posteriore che per fortuna si rompe se la cava meglio. Frequentemente, molto più robusto, ha una certa capacità di guarigione spontanea, cosa che non ha il crociato anteriore, quindi insomma, se ne parla meno. Quindi il legamento crociato anteriore è quello che voi chiamate legamento fragile. Un giorno no. Però si può aspettare ad intervenire sul legamento, vero? Qui entriamo in un altro argomento, nel senso che più si aspetta e peggio è, nel senso che il ginocchio lavora male e quindi tende a usurarsi. È chiaro che l'indicazione ad un intervento chirurgico di ricostruzione del crociato è legato all'età, alle attività sportive, alle attività lavorative. Se viene da me un ragazzo di 18 anni che si rompe il legamento, io lo opero appena possibile, perché evidentemente lui comincia la sua vita di lavoro e sportiva ed è giusto metterlo nelle condizioni ideali. Se se lo rompe un cinquantenne se ne parla, nel senso che oggi il cinquantenne non è più quello di molti anni fa, per cui gioca a tennis, quindi se ne parla. E altro elemento importante, l'intervento di ricostruzione del crociato anteriore non è più quello di 40 anni fa, quindi è un intervento molto ben tollerato dal paziente, fatto in artroscopia, quindi non è così aggressivo come una volta. Quindi mentre nel giovanissimo io credo che sia giusto farlo, nella persona meno giovane è in relazione alle esigenze del paziente. Quindi vede che conviene un po', no? Avere qualche primavera in più sulle spalle. Certo, meglio averla che non averla. Senta, ma lei ha detto che l'intervento per la ricostruzione del legamento non è più quello di una volta, né artroscopia, ma operativamente, concretamente, che cosa fate? Dopo quanto tempo si può riprendere l'attività, guidare, ad esempio? Parliamo di legamento. Sì, certo. Si prendono o un pezzo di tendine rotuleo, che è quello davanti al ginocchio, o si prendono due tendini sempre dall'articolazione del ginocchio, questi vanno a sostituire il legamento. È un intervento che richiede 1-2 giorni di ricovero, 3-4 settimane di stampelle, però muovendosi senza tutore, e poi una riabilitazione che deve essere fatta per 4 o 5 mesi prima di avere una validità muscolare tale da poter riprendere le attività sportive, mentre le attività quotidiane si riprendono nel giro di un mese ad al esempio massimo. Io quando potrei guidare se mi facessi operare di legamento? 3 settimane. Quindi per 3 settimane. Ma proprio perché lei? Sì, a Milano sono tranquilli, c'è un pericolo in meno in giro. Senta professore, abbiamo tanti ascoltatori, abbiamo Michela da Livorno. Buongiorno Michela. Buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho chiamato perché non sono mai andata da un dottore, in verità non ho dolore. Brava Michela, continui saggia. Così. Senta saggia. Solo noi che li teniamo lontani, li invitiamo qui per tenerli lontani. Infatti, ecco. Sì. Io mi sono operata al ginocchio ai tempi dell'operazione classica, sì. Quella che mi ha lasciato una cicatrice tipo pirata sul ginocchio di circa 15 centimetri. Sì. Ma da 2 o 3 anni il mio ginocchio ha iniziato a fare un rumore allucinante quando cammino, quando salgo le scale, quando cammino in salita. È come se ci fosse della sabbia dentro, dei sassi. È un rumore che sentono anche gli altri, quelli che mi camminano vicino. Ma che rumore fa? Me lo faccia sentire. No, ma senta, è un rumore che crea anche dolore o solo rumore? Nessun tipo di dolore. Faccia finta di niente. Com'è? Faccia finta di niente. Ah, bene. Se il rumore, scusi, non le crea dolore, non chiami neanche a chiedere qualcosa. No, l'unica cosa è che mi chiedano se ho le scarpe rotte. È quello, pazienza. Faccia una risata. Comunque può essere un po' di usura della cartilagine, ma ripeto, un rumore senza dolore è meglio non approfondire. Allora, salutiamo Michela e a proposito di usura della cartilagine, la domanda che arriva via SMS al 349-238-6666. Devo dire, più di un ascoltatore mi chiede: ma esistono degli integratori per far così, per aumentare il trofismo della cartilagine, per farla stare bene, per renderla, non dico nuova, ma insomma una... Allora, questo è un argomento molto molto molto controverso, alcuni ci credono, altri non ci credono. Lei ci crede o no? Rispondo in generale. Le mie osservazioni sono questo: se c'è un inizialissimo sofferenza cartilagineo può essere utile. L'errore che oggi si commette, e questo è sicuramente un grossolano errore, in presenza di un danno cartilagineo conclamato. Io vedo pazienti anche di 80 anni che hanno l'artrosi, ai quali viene suggerito di dare l'integratore. Questo è assolutamente inutile. Che io sappia, c'è un unico lavoro che è stato pubblicato in cui si è dimostrato un certo miglioramento dello stato della cartilagine, ma preso in una fase inizialissima e per moltissimo tempo. Allora, Paolo ci chiama da Roma. Paolo, buongiorno. Senta, io volevo... Mi sente? Sì, la sentiamo, Paolo. Sono stato operato 16 giorni fa di protesi al ginocchio. Mm. E nei giorni successivi ho avuto febbre alta e diarrea che ancora, diciamo, non ho completato di finire, diciamo, non mi sono messo a posto, anche se la febbre non c'è più. Mm. Volevo sapere se le protesi possono avere rischi di infezioni, di abbassamento di protezioni, diciamo, immunitarie, ecco. Che rischi ci sono a seguito? Allora, ovviamente stiamo cambiando argomento, sì, però è giusto quando anche si arriva al ginocchio, certo. Allora, la risposta è: non c'è una intolleranza alla protesi, non esiste, a meno che non ci siano problemi di allergia, ma questo ai metalli, ma questo è un discorso a parte, mentre ci può essere il rischio di infezione, come evidentemente in tutti gli interventi chirurgici. Quindi se la sua febbre è passata, se la situazione sta migliorando, alle volte dopo un intervento ci può essere un po' di febbre per un riassorbimento dell'ematoma. Volevo dire una cosa relativa alle protesi. Attenzione che io ricordo sempre una paziente che, quando le ho proposto e le ho fatto poi un intervento di protesi, mi ha detto: ma perché la chiamate protesi, che ci spaventiamo? In quanto la protesi non vuol dire buttare via il ginocchio del paziente come uno potrebbe immaginare, ma vuol dire rivestire. In sostanza, quella cartilagine che si è logorata viene portata via solo la parte di cartilagine e si riveste con del materiale artificiale, metallo e plastica. Quindi in non fondo è come se voi metteste un'armatura. Una camicia, sì. Una camicia, ecco. Mauro da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere al professore, siccome ho subito 10 anni fa un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore al ginocchio destro, e a seguito di questo sono tornato a giocare a calcetto e ho fatto un movimento strano anche all'altro ginocchio, che però non ho mai operato. Ma si è rotto anche l'altro? Non ho la certezza, ma ho fatto più o meno lo stesso movimento, è rimasto gonfio diverso tempo, dottore, è rimasto così. E Mauro si è fatto un'autodiagnosi, ma non si è fatto vedere da nessuno, Mauro? Avevo patito talmente tanto all'intervento vecchio che non ce l'ho fatta a sopportare o d'altro. Però insomma sono passati gli anni, adesso ho 34 anni e sono diventato un runner, che è cosa contrarissima a chi ha avuto degli infortuni del ginocchio. Ma soprattutto faccio le maratone. Mm. E devo dire che da quando corro non sono mai stato così bene, non ho più dolore, ho qualche dolorino magari se facciamo discese o via dicendo. Però tutti mi dicono: sei matto, poi sarai tifando le protesi come ai vecchi e via dicendo. Già la protesi, il professor D'Anchisa ha detto, non pensiamola come una camicia che avvolge questa, no, una camicia elegante, e però speriamo di no. Ma Mauro, devo dire che dal medico non è più andato, perché dice: no, ne ho passate talmente tante prima, si è fatto un'autodiagnosi e corre e sta bene soprattutto, lui, e questo mi piace lui non molto. Si è fatto un'autodiagnosi, lui dice: mi sono fatto male, in sostanza, questo d'altra parte, quindi è difficile dare un suggerimento. Dico questo, che un buon allenamento va benissimo per l'articolazione. Purtroppo la corsa, ma questo in generale non riguarda solo chi ha avuto dei traumi o degli interventi chirurgici, è molto pesante per l'articolazione. Cioè la nostra cartilagine non è fatta per avere delle sollecitazioni continue così importanti. La maratona è molto importante. Quindi io vedo spesso pazienti che fanno attività di corsa, maratona, che purtroppo negli anni consumano la cartilagine. Ripeto, è giusto un buon allenamento, come sempre il troppo può creare delle problematiche. Però se ad esempio il nostro amico, facendo la maratona, avendo le ginocchia come diciamo noi un po' conciate, iniziasse a prendere quell'integratore proprio all'inizio, un po' per dire alla sua cartilagine: ti sto stressando, ma perché se all'inizio, perché il maratoneta vuole sapere, non la prenderei. Lei non la prenderebbe. Andiamo a Domenico da Chieti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la sua trasmissione, sempre molto interessante. Grazie. Approfitterei per chiedere, per portare il mio caso al suo illustre ospite, un caso fresco fresco, ieri l'altro, inginocchiandomi proprio è capitato quel caso che... Quanti anni ha? 54. Tra l'altro io ho ancora la presunzione di giocare a pallone a livello amatoriale. Bene. Va bene, fa bene. Ma... Domenico. Ma questo non è successo giocando a pallone, è successo così, casualmente sì. Ero a casa, mi sono inginocchiato e ho sentito questo tra un dolore, fastidio e un rumoretto. Non vorrei che sia partito. Ecco, volevo chiederle, ma per accertarmi è opportuno una radiografia, una risonanza? Anche perché tra l'altro io guido, sono in macchina adesso, non ho molto fastidio, però nel scendere le scale in modo particolare ho problemi. Allora un attimo, professor D'Anchisa, a proposito, Domenico in macchina, noi dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo con Domenico. E siamo tornati insieme. Un giorno, qualche giorno fa, Domenico da Chieti si è sollevandosi, ha sentito un Domenico dolorino e un rumorino. Allora, il mio consiglio è aspetti qualche giorno, perché da quello che lei mi dice non è invalidante, non è importante come sintomatologia. Se dovesse persistere, fa una radiografia e una risonanza magnetica e si fa vedere da uno specialista. Attenzione però, ripeto quello che dicevo prima, se io faccio una risonanza magnetica a 50 persone che hanno 55 anni, nella stragrande maggioranza dei casi trovo dei menischi un po' consumati, che chi legge la risonanza, cioè il radiologo, descrive come rottura del menisco. Non sempre è indispensabile, come dicevo prima, un intervento chirurgico. Quindi lei, che mi pare che avesse detto che ha 50 anni o giù di lì, potrebbe far parte di quelli che hanno una rottura da usura e quindi forse potrebbe non aver bisogno di un intervento. Maurizio ci chiama dalla provincia di Monza. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il mio problema, che ho dato prima informazione, è un ginocchio dolorante da almeno un mese e mezzo, attività sportiva zero, attività lavorativa tanto. Io guido tutto il giorno, ho la macchina, ho il furgone, in questo momento sono su un camion, il muletto, salgo, scendo, e quando scendo dal camion, dalla macchina, da qualunque mezzo, ci metto 10-12 passi a raddrizzare il ginocchio con dei dolori. L'ho fatto sentire al medico, ha toccato l'altezza del menisco della gamba sinistra, quindi quella della frizione, e effettivamente mi faceva male. Mi ha fatto prendere un antinfiammatorio, un Nokin normale, una volta al giorno, ho prenotato la risonanza magnetica che ho fatto 8 giorni fa e mi consegneranno stasera l'esito. Nel frattempo però, prendendo l'antinfiammatorio, il dolore è praticamente quasi del tutto scomparso. Quando dal camion riesco a raddrizzarmi, per quello che riesco, non facendo attività sportive, però diciamo che il dolore è praticamente sparito, anche toccando dove c'è il menisco non sento più il dolore, che prima era abbastanza sfiorare. Maurizio, mi dice la sua età per favore. 49 anni. Ecco, 49. È possibile che lei, mi interessa questa testimonianza perché conferma un po' quello che ci siamo detti prima, cioè è possibile che lei abbia un menisco un po' consumato e forse la risonanza lo potrà dimostrare, però lei rientra in quel gruppo di pazienti che hanno questo dolore da sollecitazione di menisco non perfetto, che probabilmente potrebbe aver bisogno di niente, insomma. Però se ha male, gli passa male solo il dolore solo con gli antidolorifici, che cosa potrà fare Maurizio se non è il caso certo di operarsi? A un certo punto li sospende e vedrà. È chiaro che se, come dicevo prima, se la sintomatologia persiste, evidentemente l'alternativa è quella di fare un'artroscopia. Giuseppe invece ci chiama da Palermo. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci. Allora, il mio problema, io ho avuto l'asportazione del menisco mediale circa 13 anni fa, giocando a calcetto, poi dopo l'intervento ho fatto la riabilitazione, ho irrobustito il quadricipite, quindi il ginocchio non mi dava più fastidio. Sì. Causa lavoro ho abbandonato un po' lo sport, faccio circa 10 ore di mattina al giorno, sono un corriere, Da qualche anno ho di nuovo dei problemini con il ginocchio, ho dovuto ridurre o quasi azzerare l'attività sportiva. A me piace correre, ma non posso più farlo. Sì. Recentemente ho fatto una risonanza magnetica, è venuto fuori che ci sono dei residui meniscali, un piccolo spostamento, e poi ho anche un assottigliamento dei legamenti crociati sia anteriore che posteriore. Ecco, volevo... Allora, professor D'Anchise, che allora, lo traduce innanzitutto soprattutto... menisco interno o menisco esterno, se lo ricorda? Interno, mediale mi hanno detto. Ok, questo adesso faccio una piccola digressione. Il menisco esterno è quello che quando viene asportato dà più facilmente e più rapidamente una usura cartilaginea. Comunque, tornando invece al nostro ascoltatore, lei probabilmente fa parte di quei pazienti che nel tempo, dopo aver fatto l'intervento di asportazione del menisco, comincia ad avere una usura dell'articolazione. Quando si parla di quei frammenti residui, io ci credo sempre relativamente poco. È possibile che il residuo meniscale si rompa, però molte volte sono solo delle immagini che non hanno significato. Il mio suggerimento, eventualmente, se la sintomatologia persiste, è quello di fare un'artroscopia per valutare l'entità del danno cartilagineo, e lei potrebbe ipoteticamente essere un candidato ad un trapianto di menisco che potrebbe darle una buona soluzione. Allora, abbiamo dei messaggi e vorrei leggervi quello di Tano, che ci chiede: cosa ne pensa il professore della bicicletta come sport per ginocchio operate di menisco e crociato? Benissimo, anche lì bisogna vedere cosa vuol dire bicicletta, nel senso che io ricordo un paziente che ha detto: lei può fare la bicicletta, è tornato con un ginocchio gonfio in maniera incredibile, è andato a fare le tre cime di Lavaredo dopo un mese e mezzo dall'intervento. Quindi, perché bisogna che voi medici specifichiate, esatto, che fino a che pendenza si può fare, insomma. Quindi la bicicletta va benissimo, è uno sport che fa lavorare la muscolatura, è uno sport che non richiede il carico, e quindi è uno sport che ovviamente, se fatto con buon senso, va benissimo. Sì, ci piace. Noi, tra l'altro, professor D'Anchise, domani insieme al dottor Confalonieri e a un gruppo di esperti parleremo di attività sportiva, cosa che facciamo regolarmente al venerdì, ma parleremo di resistenza. Io spero che lei sarà in sala operatoria, non mi ascolterà, no, ma poi può riascoltare, perché certamente, naturalmente, la trasmissione. Volevo solamente ricordare un ultimo dettaglio. Abbiamo 30 secondi per un'indicazione. Il ginocchio si gonfia e non provoca dolore. Che cosa si fa? Si fanno degli accertamenti, perché il gonfiore di per sé non è una malattia, ma è il sintomo di qualcosa che non funziona, e potrebbe essere una patologia reumatica, potrebbe essere una patologia della membrana sinoviale. Quindi un ginocchio che si gonfia è un ginocchio che va accertato. Grazie al professor D'Anchise, grazie a voi che ci avete seguito. Vi aspetto domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.